767. Gelato di pistacchi. Latte, decilitri 8. Zucchero, grammi 150. Pistacchi, grammi 50. Rossi d'uovo, numero 6. I pistacchi sbucciateli con l'acqua calda e pestateli finissimi con una cucchiaiata del detto zucchero. Poi metteteli in una cazzaruola coi rossi d'uovo e lo zucchero, rimestando il tutto ben bene. Aggiungete il latte e ponete il composto al fuoco girando il mestolo. E quando sarà condensato come la crema, versatelo ghiaccio nella sorbettiera. Questa dose potrà bastare per 8 persone. Certuni usano di abbrustolire i pistacchi. Io non lo approvo perché perdono il loro gusto particolare. Mi dicono che per rinforzare a questo gelato il color verde dei pistacchi si usa di unirvi un poco di bietola lessata e passata dall'ostaccio.